Eccoci a Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione potete consultare il sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sempre sul sito della radio, sull'home page, c'è Ascolta la diretta. E ritroviamo Danilo Monte, regista del documentario Memoria, in viaggio verso Auschwitz, in uscita in sala, è uscito in sala ieri 21 ottobre. Danilo, ben ritrovato. Ciao, grazie dell'invito. Come stai? Tutto bene, ieri la proiezione è andata bene e stasera replichiamo al Beltrade. Dove eravate ieri? Bergamo, all'auditorio di Piazza della Libertà, e stasera al Beltrade a Milano. Danilo, allora, per chi ci ascolta e si è perso la scorsa puntata, che era la scorsa estate, per parlare proprio di questo tuo lavoro, lo raccontiamo per sommi capi? Sì, io per i suoi 30 anni ho deciso di regalare a mio fratello un viaggio al campo di concentramento di Auschwitz, prima di tutto perché è un grande appassionato di storia ed è il posto in cui sarebbe sempre voluto andare, quindi ho voluto fargli questo regalo. In realtà ho deciso di fare questo viaggio perché è un po' di tempo che non parliamo di alcune cose, ho avuto tanti problemi nella vita, per cui ho voluto darci questa occasione per ritrovare il dialogo e ho filmato tutto, e il documentario è il racconto di questo viaggio. Tra l'altro non è stata una meta casuale, perché lui comunque è un appassionato di storia. Sì, di storia, in particolare proprio di Seconda Guerra Mondiale. Di Seconda Guerra Mondiale. Sì, ha letto tantissimo fin da bambino di quello. Non ci sarebbe stato posto migliore in cui portarlo per i suoi 30 anni. Senti, come è stato questo rapporto a due dopo un periodo di incomunicabilità e di silenzio e di tensioni magari? Come si vede nel film, un incontro, ma inizialmente uno scontro anche verbalmente violento, cioè queste questioni, certi nodi sono venuti al pettine ed è andato bene così, nel senso che è stata proprio l'occasione per riparlare alcune cose. Naturalmente queste cose sono importanti, per cui ci stava anche lo scontro, poi però si arriva, e quando si arriva mi piace questa immagine in cui ci vediamo nel mare mentre cerchiamo di raggiungere il fondo, e è molto faticoso raggiungere il fondo, però poi arriviamo, lo tocchiamo e ci tocchiamo anche tra di noi, ed è andata così. Ecco, proprio per farne un bilancio, è stato comunque un momento, una tappa importante del vostro rapporto. Fondamentale, importantissimo, perché abbiamo toccato momenti di vicinanza mai toccati prima, per cui evviva se un film può fare questo. Naturalmente un film non può cancellare e far superare tutto, quindi c'è tanto da fare al di là del film, però mi piaceva, insomma, fare un'esperienza di vita e farla coincidere con un film, un po' quello che mi piace fare, facendo coincidere, insomma, il fatto di vivere con il fatto di fare cinema. Senti Danilo, come sarà la distribuzione da ieri? Ci hai detto di queste prime due tappe, come funzionerà? Allora, ci sono queste prime due, poi ci saranno due proiezioni a Torino il 9 e l'11, e queste al momento sono quelle fissate. Stiamo lavorando per tutte le altre, è un film difficile, che però chi poi arriva a vederlo ci rimane in qualche modo appiccicato, però è molto difficile arrivare a farlo vedere. La distribuzione di La Banda, insieme stiamo lavorando per trovare le date successive, speriamo arrivino, ci stiamo lavorando però. Allora, ci lasci informazioni, un internet per saperne di più? Sì, è tutto in progress, quindi mano a mano vi informerò. Bene, sul soprattutto alla casa, alla data romana, quindi ancora non c'è, anche se sarà a visioni fuori raccordo dal 10 al 14 questo festival che c'è a Roma, il prossimo festival in cui è un concorso questo, però dobbiamo ancora lavorare per la data anche di Roma. Ok, quindi comunque sul sito internet di Lab 80 si... Sì, tutte le date si trovano lì, poi c'è anche la pagina Facebook Memorie in viaggio verso Auschwitz di tanto in tanto pubblico poi tutte le cose. Sono contento comunque che ci a livello di stampa, a livello di comunicazione si sta molto diffondendo, ci sono state molte recensioni, ci sono molta attenzione, quindi speriamo che arrivino le date. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a te. Grazie. Ciao Danilo, ciao. Ciao. Danilo Monte, regista del documentario Memorie in viaggio verso Auschwitz, uscito in sala da ieri 21 ottobre. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario The Wolfpack, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana, in uscita in sala oggi giovedì 22 ottobre. Ben ritrovata. Ciao a tutti, buongiorno. Una storia così incredibile da meritare un film. Decisamente, direi, decisamente. Brevemente ve la racconto. Certo. È la storia quindi di questi sei fratelli che hanno trascorso tutta la vita rinchiusi in un appartamento a Manhattan, lontani, isolati dalla società civile. Questi ragazzi si sono formati studiando a casa e quindi hanno trascorso tutto il tempo guardando incessantemente dei film, dei DVD. Perché questo, vi chiederete? Perché i genitori, una strana coppia, un po' hippie, che sono conosciuti sul Machu Picchu, hanno viaggiato tutta la vita in un furgoncino, a un certo punto hanno deciso di fermarsi e hanno trovato questo piccolo appartamento economico, diciamo, in questo quartiere popolare di New York. Però essendo la società civile cattiva, nemica, spaventosa per i propri figli, la coppia decide di segregarli in qualche modo in casa per il loro bene, nel senso che comunque dà loro degli stimoli continui a portare i DVD, come dicevo, la musica e molti stimoli. Tanto che questa, che sembra una storia terribile, in realtà ha un finale positivo. Questi ragazzi, che io poi ho conosciuto anche personalmente al Festival di Roma adesso, sono dei ragazzi brillanti, sono dei ragazzi che hanno pieni di interessi. Insomma, un'altra cosa importante che ho scordato, stiamo parlando di sette giovani, quindi insomma una bella tribù. Che quindi in famiglia non è che ci fosse, non c'era da annoiarsi in qualche modo, stavano sempre insieme. Tra l'altro reinterpretavano con costumi i film che imparavano a memoria. Esatto, rinchiusi lì, non sapevano bene come passare il tempo e quindi avevano a disposizione questi DVD che il padre, l'unico che aveva in qualche modo la chiave per uscire, che portava loro, e li guardavano, riguardavano, trascrivevano la sceneggiatura su dei fogli e le imparavano a memoria. E costruivano con dei materiali di riciclo i costumi. Sì, sono un amore per il cinema pazzesco, insomma, dei cinefili veri. Tra l'altro poi tu dicevi il padre era l'unico con le chiavi, sì, dell'appartamento, con lui ci sono stati vari momenti di tensione, anche un'evoluzione del rapporto e alla fine la conquista della libertà. Sì, infatti la regista come trova questa storia, come incontra questi personaggi nel momento in cui, diciamo, c'era già, quindi 5 anni fa c'è un momento di questo equilibrio un po' sta cominciando a spezzarsi. Allora i ragazzi stanno uscendo di tanto in tanto in casa, da casa, e soprattutto appunto a causa di questi scherzi che hanno con questo padre padrone molto particolare, diciamo, che è l'unico che solo si intravede nel film, perché si è rifiutato di farsi intervistare, per dire. Quindi è interessante anche la storia della, effettivamente di come la regista li abbia conosciuti. È rimasta quindi molto stupita nel vedere queste sette persone tutte vestite uguali, in modo un po' alla Tarantino, alle Iene, che si aggiravano per le strade di New York, e con l'istinto della documentarista li ha fermati, ha cominciato un po' a presentarsi, a chiedere loro chi fossero, cosa stessero facendo, da dove arrivassero, perché sembravano un po' degli alieni. E da lì si è sviluppato tra loro un rapporto speciale, soprattutto avendo lei dichiarato di essere regista, questi si sono follemente innamorati di lei in qualche modo, perché per loro conoscere una regista, aver visto il loro amore per il cinema era un momento specialissimo, quindi non si sono sempre un po' frequentati alla distanza all'inizio, e poi dopo mesi lei è riuscita ad avere accesso al loro appartamento, e da lì piano piano, su 5 anni, lei è riuscita a mettere insieme questo film. Senti, allora da oggi nelle sale che tipo di distribuzione avete pensato? Ma guarda, ci sono alcune sale che ci credono e sin dall'inizio ci hanno creduto, sin dall'inizio ci fanno una tenitura, quindi una distribuzione abbastanza tradizionale in qualche modo, altre che si sono aggiunte un po' in corsa, visto il successo strepitoso che abbiamo avuto a Roma, e la stampa, quindi anche grazie a voi che ne state parlando adesso alla radio, probabilmente un'altra sala si aggiungerà domani, cioè è molto importante ovviamente parlarne, il passaparola è fondamentale per poi trovare degli spazi, quindi dalle 10 sale con cui siamo timidamente partiti, essendo anche un periodo molto difficile questo perché escono tantissimi film importanti, stiamo conquistando un po' il sud, ad esempio, che era sempre un po' difficile, il sud siamo arrivati insomma a 20, sono molto contenta perché ogni giorno se ne aggiungono, non appunto tutte fanno tenitura, ma insomma io non me l'aspettavo, insomma sarebbe troppo per un film documentario come questo, con i concorrenti che abbiamo ora fuori in sala, però una buona parte ci sta credendo e lo propone più volte. Abbiamo ovviamente le città principali, Roma, Milano, Firenze, Torino, il centrale di Torino che ci crede dall'inizio, insomma tante sale sparse tutto il territorio, però ovviamente ci vuole un po' di impegno a individuarle, perché non è, bisogna cercarle, magari cercatele sul nostro sito che è www.wantedcinema.eu, oppure sulla pagina Facebook, è sempre molto aggiornata, Wanted Cinema, e lì mettiamo continuamente le notizie, le nuove sale, eccetera. Anastasia, io ti abbraccio, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario The Wolf Pack, in uscita in sala oggi giovedì 22 ottobre. E da Catania Giovanni Virgilio, regista del film La Bugia Bianca, in uscita in sala oggi giovedì 22 ottobre. Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie ragazzi, buon pomeriggio. Allora, La Bugia Bianca mi interessa, allora premetto che non sono riuscito ancora a vederlo, mi incuriosiva molto la storia, e raccontiamola brevemente a chi ci ascolta, Giovanni. Sì, è una storia semplice per un tema difficile, perché noi pensiamo che i temi difficili bisogna affrontarli in maniera semplice, in modo che possano arrivare a tutti. E la storia, ovviamente il film è stato realizzato per il ventennale dalla fine della guerra in Bosnia, quindi racconta un po' quello che è successo in chiave moderna, e soprattutto tratta il tema degli stupri etnici. Però abbiamo cercato di far visualizzare il film al nostro pubblico in maniera molto più leggera, ed è la storia di Veronica, questa ragazza che fa un percorso particolare, non vi posso dire tutto ovviamente, certo. Fa un percorso particolare e scopre attraverso la sua vita, attraverso un personaggio che vive in questo paese, questa famosa bugia bianca che si nasconde, che poi si rivelerà per lei una bugia ma anche una liberazione, e che la porterà a emigrare dalla Bosnia, questa volta non per guerra ma per cultura, in Italia. Oh, questa formula che hai scelto, anche ricordando che sono passati tanti anni da quegli eventi, fa pensare un po' agli strascichi dolorosi che ogni conflitto si porta dietro e prosegue negli anni. Sì, questo tutto è un conflitto che non è mai finito e non potrà mai finire. È una cosa triste da dire, perché lo stupro etnico usato come arma in questo caso non ha lasciato le morti, ha lasciato delle vittime. Quindi queste donne si porteranno fino alla fine della loro vita si porteranno questo dramma. E soprattutto non bisogna dimenticare, anche perché lo stupro è una violenza, la violenza sessuale è una cosa che purtroppo è all'ordine del giorno, e quindi è anche un film educativo, è anche un film che spiega che non si deve fare, quali sono gli strascichi. Però ripeto, siccome ce ne sono stati altri su questo tema, è un film molto leggero, perché la storia è vista dalla parte dei giovani, quindi ci sono degli amori, ci stanno dei gruppi musicali, gente che fa cover, quindi è visto da una parte che può avvicinare il pubblico, e soprattutto non bisogna dimenticare quello che è successo, anche perché sono i nostri vicini di casa. E molte immagini che si vede, anche qualche immagine di repertorio, ci fa proprio vedere questi popoli che emigravano, che purtroppo sono delle immagini che ancora oggi vediamo in televisione. Non sono i bosniaci, però sono altri popoli che hanno una terra e magari devono andare via dalla loro. Senti, ecco, a questo proposito volevo sapere come ti sei documentato, cosa hai scoperto lavorando al film rispetto a quel conflitto. Ma guarda, io ho avuto la fortuna e la grande fortuna di collaborare, perché il film è patrocinato dalla Comunità Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, che è il CISP, della comunità bosniaca, e quindi noi siamo stati coadiuvati per la sceneggiatura dalla dottoressa Nisa Buklic, che ai tempi era presidente della comunità. E devo dire che non solo è stato scritto assieme a lei molto bene, ma soprattutto quello che noi abbiamo scoperto e quello che lei ci ha raccontato, una mail recente che abbiamo ricevuto è stata proprio una mail molto delicata, perché avevano chiesto di poter intervistare una donna che ha vissuto queste problematiche, e lei rispose a questa mail dicendo: ancora oggi loro non possono parlare, hanno dei gravi problemi psicologici, e fino a 20 giorni fa ancora ci sono stati degli attentati verso queste strutture dove ospitano queste donne. Quindi se ne parla poco di questo tema, ma è un tema ancora purtroppo aperto, c'è una grande problematica tra di loro ancora. Senti, da oggi nelle sale che distribuzione avete scelto, Giovanni? Allora, noi abbiamo una lista. Noi ci vantiamo di essere indipendenti. Bene. Questo è un film totalmente indipendente, e indipendente non significa non di qualità. È un film fatto dai giovani, è un film che all'interno porta anche una grande sacca di formazione, perché ci sono stati dei grandi professionisti dello spettacolo, da Paghi Meduri, che è lo scenografo di Gomorra, o di Gomorra la serie, o di Suburra, Marco Spoletini al montaggio, che ha coadiuvato gli altri montatori, che lui ha fatto anche Gomorra, nel senso. Quindi qual è il discorso? Noi ci teniamo a essere indipendenti, quindi abbiamo anche una distribuzione indipendente agguerrita come la nostra. Usciremo intanto al Meridione, a Roma, poi settimana prossima arriverà a Milano, arriverà a Foggia, arriverà a Trieste. Quindi facciamo il percorso da indipendenti, che ci rende anche abbastanza orgogliosi in un paese dove è difficile fare per i giovani si sono dati da fare. Senti, c'è un sito internet o una pagina Facebook del film? Sì, la pagina Facebook è La Bugia Bianca, il film. Il sito internet dell'azienda che l'ha prodotto è Movieside, quindi info è www.movieside.it, ASAP la distribuzione, e soprattutto Erika, noi attori, perché abbiamo queste bellissime musiche di Erika Mu e di Giuliano Fondacaro, firmeranno molte locandine, insomma noi cerchiamo di rendere partecipe il pubblico più che possibile, e metterci dalla parte loro, perché sono loro che ci hanno sostenuto in questi anni. Quindi La Bugia Bianca, il film, sosteneteci, andarlo a vedere significa non dimenticare, è storia, e soprattutto sostenere le produzioni indipendenti fatte dai giovani. Giovanni, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, siete stati gentili, in bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Giovanni Virgilio, regista del film La Bugia Bianca, in uscita in sala oggi giovedì 22 ottobre. Eccoci con Albert Bucci, direttore della 13ª edizione del Ravenna Nightmare Film Festival, FEST abbreviato, 28 ottobre, 1 novembre. Albert, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, e benvenuti anche a tutti i nostri ascoltatori. Sbaglio o è il più importante festival horror italiano? No, che non ti sbagli, per fortuna siamo il più importante festival horror italiano, siamo forse quelli che sono riusciti nel tempo a dare nobiltà al genere, a far capire che anche appunto horror, fantascienza, queste cose da sottocultura in realtà generano grandissima cultura e grandissima arte del cinema. Tredicesima edizione che richiama un film horror per l'appunto. Albert, raccontaci un po' questa, intanto la vostra storia e poi come si caratterizza questa edizione. La storia è semplice. Dopo 13 anni abbiamo iniziato appunto dedicandoci a qualcosa che in Italia mancava, un festival del genere fatto con tutti i crismi e i carismi, nel senso selezionare sempre il meglio di quello che si può trovare nel mondo, selezionare sempre ciò che è interessante e avere sempre lo sguardo verso il pubblico è fondamentale. Non possiamo definirci un evento né populista né esoterico, siamo a metà strada e una metà strada è vincente, generare cultura attraverso ciò che piace al pubblico, in questo caso il genere horror, ma sapendo anche che come tutti i generi è facile cadere nel cliché e quindi noi siamo sempre molto attenti nel cercare ciò che esula e scavalca quelle che sono le aspettative della narrazione. Senti Albert, questa edizione quante opere presenterete e poi volevo sapere anche se ci sono ospiti previsti tra gli autori che saranno proiettati. Guarda, allora abbiamo circa 10 lungometraggi, 10 cortometraggi, un documentario e 9 ore di serie televisive in anteprima. Partirei da questa che è la grossa novità, perché si pensa sempre cinema, televisione, internet, non ci sono più frontiere. Il grande cinema adesso passa anche attraverso la televisione. Io personalmente sostengo che il miglior film dell'anno scorso rimanga True Detective, che non è andato in sala, è andato in TV. E in questo caso noi programmiamo l'anteprima nazionale di una serie inglese che forse alcuni già conoscono, In the Flash, una serie dell'anno scorso, arrivata alla seconda stagione, totale di 9 ore, ed è 9 ore dedicate agli zombie, ma da un punto di vista completamente diverso. Gli zombie sono stati guariti, si parte da dove c'è normalmente il film finisce, gli zombie vengono sconfitti, ma non solo, vengono guariti, ritornano esseri tra virgolette umani, recuperano la razionalità e possono tornare nella società. Ed è lì che sorgono i problemi, perché gli zombie diventano i nuovi reietti, i nuovi escludi, i nuovi extra qualcosa. C'è sempre qualcosa che è extra te stesso. Adesso si dice extra comunitario, ma la storia del mondo è fatta di persone segregate, isolate e reputate portatrici del male. Questa serie è assolutamente fenomenale, In the Flash, di cui avremo ospite l'autore Dominic Mitchell insieme a una delle attrici protagoniste. Quindi l'appuntamento d'eccezione, che è la novità nostra del festival, appunto questa apertura alla televisione con questa serie inedita. E in più, come al solito, concorso lungometraggi di cui avremo diversi ospiti, tra cui per esempio un fenomenale horror turco con un regista turco, oppure un horror colombiano, un post-apocalittico, con regista colombiano presente in sala. Quindi anche quest'anno abbiamo numerosi ospiti e numerose chicche e come al solito speriamo sempre di sorprendervi in positivo. Senti, per quanto riguarda l'horror, allargando un po' il discorso, che direzioni sta prendendo? Tu prima hai parlato di che non ci sono più frontiere tra il cinema, la televisione e internet, però ecco, volevo sapere i temi dell'orrore, cos'è oggi su cui si punta per spaventare? Guarda, in generale io ho notato questo. Esco un attimo dalla specificità del film horror e secondo me invece è molto importante notare che l'horror non come tema principale ma come tema secondario è sempre più presente nel cinema e anche nella letteratura. Intendo dire, abbiamo delle commedie, delle black comedy, delle commedie nere, oppure possiamo avere dei thriller con forti virate verso l'horror. In questo caso l'horror sta diventando sempre di più un sottogenere rispetto alla narrazione, è sempre più un elemento di condimento essenziale in generale, sì, in quello che viene prodotto. Nello specifico della narrazione, sai, è un po', c'è sempre da dire, è un po' in stanca, nel senso che ne vediamo tanti. Allora, la maggioranza di quello che vediamo e che poi non ci va a dimostrare sono ripetizioni quasi scontate del solito meccanismo. Quello che è interessante è quando appunto la grande varietà dell'oro porta anche a scavallare, come per esempio in It Follows, che è uno degli eventi speciali che faremo, a scavalare quelle che sono le regole del genere. Cioè It Follows, evento speciale, fuori concorso, è un team, è uno slasher maniaco che sequestra la ragazza, ma costruito in maniera completamente diversa dal solito. È questo che è molto importante, vedere che tutto sommato è anche una palestra creativa per stimolare l'intelligenza degli autori a, come dire, provocatoriamente sforzarli a uscire da quello che è il tranquillo seminato. In questo senso l'horror ha più vantaggi rispetto al classico film d'autore, dove l'espressività dell'autore è sempre riconosciuta come intoccabile. No, quando uno affronta un noir, un thriller, non un film di fantascienza, sa che deve sorprendere anche rispetto ai canoni del genere. Albert, ci lasci i riferimenti internet per la programmazione? RavennaNightmare.it. Un abbraccio e a presto e alla prossima. Grazie a voi tutti. Ciao Albert. Ciao, buon orrore. Ciao. Albert Bucci, direttore della 13ª edizione del Ravenna Nightmare Film Fest dal 28 ottobre al 1 novembre. Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. E ritroviamo a Visionari Eleonora Danco, regista del film Incapace, che sarà nuovamente in sala al Kino, il Cineclub Kino al Pigneto, qui a Roma, dal 27 al 31 ottobre. Eleonora, ben ritrovata. Salve a tutti, ciao. Come stai? Bene, compagni. Allora, tra l'altro tu sarai anche una dei nostri e delle nostre al venerdì 13 novembre al Nuovo Cinema Palazzo, Una mano sul cuore 4, che incontra Zero Calcare. Sarete una ventina tra attori e attrici che si alterneranno sul palco, e mi aspetto grandi cose. Allora Eleonora, sto scherzando, io ho una mano sul cuore, mettitela pure tu una mano sul cuore, esatto. Portafoglio. Comunque no, ci sarò e sono molto contenta. Tra l'altro San Lorenzo è un quartiere che amo particolarmente, quindi sono molto felice di esserci. Oh, il film è stato un successone ovunque, anche nel mondo, no Eleonora? Sì, per ora siamo stati a Londra, la mia prima tappa all'estero, cioè non la seconda, perché era stato anche a New York a giugno al Lincoln Center, per Open Roads, dove era andato benissimo, ho avuto delle belle recensioni. A Londra anche grazie ad Adele Tulli, che è una giovane organizzatrice e regista che ha organizzato questa diciamo visione del cinema italiano contemporaneo. Noi abbiamo aperto la rassegna ed è stato un grande successo, l'hanno anche acquisito delle università a Londra, e quindi tutto bene. Ora sarò a Salvador da Bahia, parte il 29, infatti se non dovessi più tornare continuate a vedere il mio film, fate qualcosa, e poi sarà a Gothenburg in Svezia, in concorso, insomma tante cose che ancora non posso dire. La cosa buona è che sarà anche al MED a Roma, però a novembre, che è un festival anche molto importante di cinema, forse il festival più antico di Roma, credo, sarò al Savoy il 7 novembre. Però per tornare a bomba al Kino, ci tengo moltissimo. Il Kino è un cinema, come dici tu, molto seguito, tra l'altro è al Pigneto, quindi vicino anche San Lorenzo, e questa zona che amo molto e dove in parte è girato il film, qui a San Lorenzo, con due rappresentanti di San Lorenzo, niente male. e quindi sì, mi sta dando grandissime soddisfazioni, ci sta dando, per essere un film indipendente, nel senso che anche se ha una struttura solida come la BB Film di Barbagallo, l'ha coprodotto la RAI e il Ministero, però come molti film italiani, ecco, soffre un po' della distribuzione, della promozione, ma nonostante tutto è richiesto, quindi speriamo che sia che continui, insomma, a vivere, il suo percorso. È fondamentale. Sì, sì, sì. Senti Eleonora, il titolo Incapace? Il titolo N-Capace sarebbe in realtà una diminuzione di, no, diminuzione, non lo so, però il mio slang americano N-trattino sarebbe no, e quindi era come no capace, però quel trattino che c'è in mezzo io me lo sono sempre figurato come una specie di trampolino, e dove dal no della N uno si può anche buttare invece nella capacità, quindi diciamo che rispecchia molto l'anima del film, che dondola tra la non capacità e la capacità comunque a vivere. E dato che il film è la cosa a cui tengo e ho cercato di fare, che poi è uscita fuori e che non prende nessuna posizione in realtà, si pone delle domande, fa uscire delle realtà, ma non le giudica. E quindi è da queste realtà che sono divertenti, come tu sai, è un film che fa anche molto ridere e fa anche commuovere. Esce fuori però appunto questo groviglio di modi di vivere, di attaccarsi alla vita, perché ci sono dei personaggi, almeno una dozzina di personaggi formidabili che ho trovato, grazie a loro chiaramente. Io ho solo avuto l'abilità di mettermeli a cercare uno per uno in mezzo alla strada. E tra l'altro uno dei giovani protagonisti del film, Riccardo Vitiello di Tor Bella Monaca, è stato preso come protagonista nel film di Francesco Bruni, che andrà a Venezia l'anno prossimo, e anche a fare Subura, mi ha detto che no, mi hanno preso a fare Subura a serie. E quindi sono troppo contenta per lui. Però ecco, è un segno che questi personaggi nel film, lui è quello che appunto a un certo punto dice che magna è la cosa più bella che c'è sta su sta terra, io gli chiedo e le altre due quali sono, lui dice Cacascopa. Però a parte queste battute strong, è un film dove esce fuori molto la vitalità delle persone, al di là che tutti questi ragazzi che ho trovato nelle periferie e perché e nei paesi, che è ambientato anche a Terracina e a Tor Bella Monaca, tantissimi ragazzi anche che non ho potuto mettere nel montaggio, ma quasi tutti appunto mi dicevano che non vanno a scuola o che lasciano al secondo anno. E nel film esce un po' fuori questo anche del rapporto con la scuola, con Dio, col sesso, cioè i temi clou della vita, poi, no? Clou sì. Nel senso che appunto quelli che siamo chiamati ogni volta, appena ogni volta, insomma, quando siamo bambini, poi da quando sei piccolo ti iniziano a insegnare appunto che cos'è la religione, che cos'è il credo, che devi andare a scuola, come ti devi comportare, poi c'è la sessualità. E tutte queste cose escono però in un modo molto forte e soprattutto visivamente potente, sì. Perché ho lavorato molto sulle immagini, sulle inquadrature, ispirandomi al surrealismo di Buñuel, a De Chirico, ma anche al mio modo di vedere le cose. Mm-hmm. Con Daria D'Antonio, il direttore della fotografia, ci siamo trovate molto bene. E poi ci sono le musiche di Marco Sacher, che non so se conoscete, ma è dei No Twist. Mm-hmm. Il leader dei No Twist e dei Lalipuna, che ha fatto delle musiche elettroniche meravigliose per il film. E poi c'è mio padre, la badante, vestiti da astronauti. Tra l'altro mio padre mi ha chiesto di poter fare l'attore in qualche film, infatti io lo dico, se è venito a vedere, in realtà è molto bravo, però si è un po' montato la testa. Comunque lanciamo l'appello per tuo padre. Poi ci sono i costumi di Alessandro Lai. Insomma, ci sono tanti grandi collaboratori, persone con cui ho lavorato veramente bene, e il film, ecco, è un incapace come me, quindi non sto a parlare così bene, però sappiate che dietro si nasconde un'anima in pena. Infatti, come sai, io vado in giro con un piccone per Roma, e mai è stato così attuale questo film, se ve lo venite a vedere, perché c'è proprio una Roma da prendere a picconate, anche anche da amare, sicuramente amare e prendere a picconate. Senti Eleonora, ci lasci dei riferimenti internet per quanto riguarda il tuo film e il tuo lavoro in generale? Sì, c'è un allora sito... voi potete andare, sì. Innanzitutto c'è un sito che si chiama Incapace Film. Poi mi potete anche chiedere l'amicizia su Eleonora Danco, che è una pagina, non è proprio mia, non sono proprio la vera Eleonora Danco, perché evito di scrivere i miei commenti sulla realtà perché sarebbero penosi, però no, perché non so scrivere, però ecco, su, e poi c'è il sito del Cinema Il Chino dove ci sono tutti i riferimenti, e poi se invece volete avere più notizie di tutto quello che accade potete chiedere l'amicizia a Eleonora Danco o andare su Un Capace Film e lì troverete, che invece è una pagina di Mi Piace, ci saranno tutti i contatti, cliccate anche Mi Piace all'evento che troverete sia sulle mie pagine che sulla pagina del Chino, mi fate un regalone. Allora ci vediamo al Chino dal 27 al 31 ottobre e poi venerdì 13 novembre al Nuovo Cinema Palazzo, serata Una Mano sul Cuore 4, Incontra Zero Calcare. Eleonora Danco ci farai un monologo. Incontra pure Eleonora Danco. Eleonora Danco con un estratto da uno dei suoi spettacoli, no, sicuramente no. Un monologo dei tuoi che mi fanno morire. Eleonora, io ti abbraccio. Sì, voglio solo ricordare che le proiezioni al Chino sono due al giorno, 22:30 e 20:30. Benissimo. E quindi il 27 ci sarò anch'io, e il biglietto costa 5 euro più la tessera Arci 2015, mi hanno detto, per chi non ce l'ha sono altri 5 euro. Se invece ce l'avete ricordatevi di portarla. Ciao Eleonora. Grazie a tutti, ciao, a presto Federico. Ciao, ciao. Grazie, grazie ancora, ciao. Eleonora Danco, regista del film Incapace, al Chino, Cineclub Chino al Pigneto, qui a Roma, dal 27 al 31 ottobre. E ritroviamo Antonio Bellia, co-direttore questa volta della prima edizione di Diritti a Todi, Human Rights International Film Festival, dal 27 ottobre al 1 novembre. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, grazie a tutti. Allora, un esordio, una prima edizione, come nasce tutto questo, Antonio? Sì, una nuova scommessa, insieme a Francesco Cordio e alla... a Oneir, che è una società di distribuzione cinematografica, abbiamo creato questa prima edizione del Diritti a Todi, una nuova scommessa sempre in ambito sociale, sui diritti umani. Come partner ovviamente principale abbiamo in questo caso Amnesty International, e ci abbiamo provato, sono un po' di tempo che ci proviamo, finalmente siamo riusciti e adesso insomma siamo pronti per iniziare. Senti, avete messo insieme quanti lavori, quante opere presenterete? Ma il programma è molto ricco in realtà, perché c'è la sezione competitiva fatta da due sezioni, una di lungometraggi dove ci sono 10 documentari provenienti un po' da tutto il mondo, e una di cortometraggi in cui ci sono 30 cortometraggi. Però poi c'è tanto altro da vedere, perché abbiamo fatto, c'è un focus sull'Argentina fatto con il partenariato del Festival sui diritti umani di Buenos Aires, e poi abbiamo una sezione in questa sezione ci saranno sia film di fiction che documentari che cortometraggi, mentre poi abbiamo una sezione con l'AMOD che propone anche una serie di titoli, tra cui per esempio Patria di Farina, che sarà presente al festival. Poi abbiamo anche, siccome sono arrivati in realtà tantissimi iscritti da parte dall'Iran, in realtà si è deciso di fare un focus specifico sull'Iran, e anche qui quindi ci saranno ben 12 cortometraggi e più. Apriamo il festival in realtà con Taxi Teheran, e quindi daremo un'attenzione particolare a questo paese. E poi ci sono 5 eventi speciali, ogni sera ci sarà un evento speciale con delle proiezioni di alcuni film, tra cui Buongiorno Taranto, Primo Giorno di Dio, Frammenti di Libertà, e anche qui ovviamente tanti ospiti e tanti dibattiti. Senti Antonio, ci parlavi dell'Iran, ecco, da quali altri paesi provengono i lavori e quali sono gli argomenti più trattati rispetto ai diritti umani? Ma guarda, ci sono in concorso, in realtà ci sono ben 5 autori italiani, sì. C'è Maurizio Mangano con Internet, che è un film girato in Georgia. Sì, sì, sì, l'abbiamo avuto anche ospite. Ah, perfetto, quindi un gruppo di famiglie Bzake, mm-hmm, che sono fuggite durante la guerra civile in Georgia. Abbiamo A tempo debito di Cristian Cinetto, che è girato all'interno di un carcere, da voce a 15 carcerati reclusi a Padova, di varie etnie. Poi abbiamo Lost Citizen di Sebastiana e Carlo Esco, che testimonia la dura crisi della terra del Sulcis, ovviamente sempre ambientato in questo caso in Italia. Un giorno a Wamba di Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, e invece che ci porta in un villaggio congolese. E poi, sempre come italiano, come ultimo italiano, abbiamo Lucciole per lanterne di Stefano e Mario Martone, sì. che sulle battaglie delle donne che si oppongono alla costruzione di grandi dighe nella Patagonia cilena. Mm-hmm. E poi ci sono film appunto che provengono da quanto riguarda i lungometraggi, abbiamo molti film europei in realtà, su varie tematiche, sulla crescita per esempio delle destre in Grecia, del fenomeno che di qualche anno fa, che soprattutto è stato molto forte. Poi abbiamo un film A tiro de preda della Carcel di Castellas, che è una prima europea e che ritrae tre adolescenti palestinesi nei territori occupati. E poi invece, per quanto riguarda i cortometraggi, non sto a elencare tutti, ovviamente tutti i film, certo, ma provengono davvero da tutte le parti del mondo, cioè dall'Africa, da tutti i continenti. Mm-hmm. Senti Antonio, per la programmazione ci dai tutti i riferimenti internet? Sì, ovviamente potete consultare il programma, che è già sul sito, è www.dirittiattodi.it. Lì trovate tutte le informazioni. Ovviamente le programmazioni saranno tutto il giorno, ci saranno anche un'attenzione rivolta ai giovanissimi, quindi coinvolgimento delle scuole del territorio, comprensione e incontri anche con gli autori, e poi ci saranno tantissime anche presentazioni di libri, e poi c'è la collaborazione con Amnesty International, che appunto è il partner principale, ha portato anche alla creazione di un convegno internazionale sui diritti umani, un convegno Fortezza Europa, il fallimento dell'Europa nella gestione dei flussi migratori. Mm-hmm. E questo sarà sabato 31, tutto il giorno, diciamo dalla mattina dalle 9, dalle 11 fino alle 5 del pomeriggio. E tra gli ospiti, per esempio, abbiamo Don Mussi Zerai, che è candidato premio Nobel per la pace. Bene. Antonio, allora io ti abbraccio e a risentirci presto. Prego, grazie di tutto e spero insomma che veniate in tanti a Todi. Vi aspettiamo da martedì. È anche un bel posto Todi. Infatti, un bel posto, si sta bene. Poi il tempo pare che sia previsto pure bello, quindi una bella gita. Infatti, buon cinema e buon cibo e buon tempo. Ciao Antonio, a presto. Ciao, grazie Federico. Ciao. A presto. Saluto a tutti. Antonio Belliaco, direttore della prima edizione di Diritti a Todi, Human Rights International Film Festival, dal 27 ottobre al 1 novembre. In collegamento con Antonello Centomani di Movie Day sul progetto Viaggio nel cinema indipendente. Antonello, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ben ritrovato a voi, grazie. Allora, di Movie Day avevamo parlato, raccontaci brevemente di cosa si tratta e poi di questo nuovo progetto che prende il via proprio per dei film che escono ora. Esattamente, sì, appunto, Movie Day è una piattaforma che abbiamo avuto il piacere di presentare anche con voi qualche mese fa, quando è partita, la prima piattaforma web in Italia che permette di organizzare delle proiezioni al cinema. Chiunque può farlo, e specialmente fa piacere che lo facciano dei registi indipendenti che hanno difficoltà di accesso alle sale, quindi al pubblico in sala. E quindi una delle prime cose che siamo riusciti a fare, appunto dopo il lancio della piattaforma, è stato appunto organizzare un festival particolare, un festival tra virgolette che noi chiamiamo come una data di inizio e senza una data di fine, perché è un festival itinerante nello spazio e nel tempo, in cui i registi indipendenti organizzano una propria proiezione in un cinema in una città o in più cinema in più città, e la lanciano su Movie Day e quindi al pubblico in sala. E stasera appunto il viaggio del cinema indipendente italiano comincia con Danilo Monte, che è tutto un ospite anche della puntata di oggi, se non sbaglio. Sì, sì, l'abbiamo appena sentito. Esatto, infatti mi sono collegato adesso, io non sento gli altri. E con appunto il suo film viaggio, quindi il tema è ricorrente, quello del viaggio nel cinema poi sempre spesso, e quindi siamo contentissimi di cominciare questa prima tappa con lui e di proseguire poi anche già con altri eventi già online su movieday.it, nella pagina di eventi. A parte quello di Danilo Monte con Memorie in viaggio verso Auschwitz, c'è Fuoco amico di Francesco Del Grosso, sempre a Milano. Poi c'è un altro film appunto indipendente e, come dire, in Italia, che non ha avuto distribuzione però ha avuto anche successo all'estero, e Eva Brown di Simone Scafidi, un film veramente interessante che sicuramente è molto atteso. E poi continuerà con altre tappe che si stanno organizzando, quindi tappe di altri registi con per esempio Lorenzo Cioffi con Rustam Casanova, che è un bellissimo documentario su un personaggio, cantante lirico giramondo. Poi ci saranno anche delle incursioni con alcuni rappresentanti del cinema indipendente italiano che sono stati un po' il manifesto. C'è per esempio il primo film inedito in Italia di Marco Becchis, Alambrado, e quindi ecco, insomma, un viaggio appunto anche in questo senso, anche non solo nello spazio, quindi nelle tappe italiane, perché i registi appunto presenteranno i loro film nei loro luoghi o del film o di nascita, quindi Napoli o Palermo, anche Morabito con Fantasmi San Berillo, ma anche registi che sono stati appunto molto importanti del cinema indipendente come Becchis. Quindi, quindi in corso d'opera si costruiranno poi mano a mano delle nuove tappe con nuovi registi, nuove opere, e appunto in un viaggio che speriamo sia veramente senza fine. A questo punto lasciaci tutti i riferimenti internet per saperne di più e magari partecipare. Allora, assolutamente. Allora, la cosa più semplice come sempre è iscriversi a movieday.it per ricevere gli aggiornamenti delle tappe e non solo, anche altre le nuove proposte di film che sono disponibili per la richiesta da parte del pubblico, e seguire pure sulla pagina eventi tutti gli eventi in corso. Basta seguire per il cinema in viaggio quelli con la fascia verde cinema in viaggio, che si distinguono appunto dagli altri. movieday.it, e niente, vi aspettiamo come sempre numerosi al cinema. ovviamente. Allora, un saluto e alla prossima, Antonello. Grazie a voi ancora, a presto. Ciao. Antonello Centomani di Movie Day su Viaggio nel cinema indipendente. Parliamo adesso di un festival, il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, che è arrivato alla 30ª edizione, in pieno svolgimento perché è cominciato il 17, proseguirà fino al 25. Ne parliamo con il direttore Rodrigo Diaz, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, grazie a voi. Allora Rodrigo, 30ª edizione, un'edizione importante, raccontaci un po' la storia anche di questo festival. Quanto tempo ne abbiamo? Perché la storia dei 30 anni. Tu sai che il festival incominciò con alle Acli Nazionali a Roma, no? Sì. E ha avuto un percorso Sulmona, Roma, Pisa, e dal 90 è approdato a Trieste e qua è rimasto. E qui abbiamo fatto le alleanze con le università, con i diversi centri internazionali, il centro di fisica, con i licei, con il collegio del mondo unito dell'Adriatico, abbiamo firmato in questi anni 7 convenzioni con 7 università italiane per offrire stage, per fare lavoro all'interno anche delle giurie, cioè per formare gente, per esempio per sottotitolare i film. Insomma, è un bel progetto che aggrega e qualche centinaio di giovani. Senti, allora, da quanti paesi dell'universo latinoamericano ospitate i lavori e quanti sono le opere che presenterete a questo festival? Quest'anno in programma sono 121 film. Da quanti paesi del Latino America? Non credo che ci sia un paese escluso. Ah, ok, ci sono tutti. Quindi sì. Anche perché per poter chiamarsi latinoamericano occorre aggiungere anche coloro che magari non hanno delle cinematografie con storie, ma hanno a volte talenti nel documentario o nell'animazione. Trovare la formula, la forma per coinvolgere tutti, ecco. Senti Rodrigo, ci sono delle tematiche più ricorrenti nei lavori che sono presentati al festival? La tematica più ricorrente sicuramente è la varietà. Sì, perché hai di tutto, anche se io quest'anno ho calcato molto la mano sul documentario, perché negli ultimi due anni si sono fatti dei documentari davvero belli in America Latina. Alcuni di questi affrontano problematiche che sono informazioni spesso sconosciute al pubblico, anche quando dovevano essere conosciute, perché sono problematiche che vanno oltre l'America Latina, che sono internazionali. Senti, per quanto riguarda la programmazione, Rodrigo, come è strutturato il festival? Il festival in numerose sezioni, hai prima di tutto eventi speciali, poi hai concorso ufficiale, competitiva, hai una sezione contemporanea che aggrega e mescola il documento, è una carrellata di immagini, di innovazione, di linguaggi diversi, di generi diversi, di durata diversa, questa è la sezione contemporanea. Poi hai un omaggio al cinema di Cali è una città importante della Colombia che ha dato in questi ultimi anni grandi talenti al cinema colombiano e latinoamericano. Poi hai i Nobel, ogni anno presentiamo o sceneggiature o trasposizioni di Nobel latinoamericani. Quest'anno abbiamo due film di García Márquez e uno di Mario Vargas Llosa. Quelli di García Márquez sono Carta del Parque di Tomás Gutiérrez Alea, il cubano, e Milagro in Roma di Lisandro Duque Naranjo, colombiano, e di Mario Vargas Llosa abbiamo il film La ciudad y los perros, la città dei cani, di la regia di Francisco Lombardi, Perù. Insomma, e poi hai il premio Mundo Latino, il premio Malvinas, il premio Arcoiris, cioè i film che sono autorizzati ad essere messi in internet perché siano conosciuti oltre al festival, no? Sì. Insomma, ne hai il Salone Spagna, no? Il tutto fa 121 film. Senti, è prevista anche la presenza degli autori? Ne abbiamo una decina. Non di più, non per mancanza di volontà, ma per mancanza di fondi. Certo. Senti, ci dai riferimenti internet per la programmazione? Sì, naturalmente al sito www.cinelatinotrieste.org. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Il nostro sincero ringraziamento e grazie per la diffusione dell'evento. Ciao Rodrigo, alla prossima. Grazie, un abbraccio, grazie, ciao. Rodrigo Diaz, direttore della 30ª edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, cominciato il 17 ottobre, andrà avanti fino al 25. E anche questa settimana Roberto Proia di Eagle Pictures per parlarci del restauro e della distribuzione di nuovo in sala del film Fantozzi, in uscita il 26 ottobre prossimo. Roberto, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' come nasce quest'idea, questo progetto. Allora, l'idea nasce da una giornata di qualche mese fa in cui mi trovavo a casa e guardavo su Sky Fantozzi va in pensione, credo che l'ho visto tipo 60 volte, e come accade per pochissimi film, l'ho continuato a vedere fino alla fine, pur avendolo già visto molte volte. Questa cosa qui mi ha fatto pensare che in effetti al quarantennale dell'uscita in sala del primo film, che divenne il campione di incassi di quell'anno, meritava Fantozzi di tornare al cinema e di essere restaurato. Fino adesso non ci aveva pensato ancora nessuno, era soltanto in pellicola, mentre adesso l'abbiamo restaurato in 2K, Eagle Pictures e Mediaset Premium, e adesso il film è immortale, cioè non si deteriorerà mai, non sarà mai, rimarrà per sempre. Questa cosa ci rende particolarmente orgogliosi. Senti, si parla dell'impiegato medio, in Italia era il 1975, la regia era di Luciano Salce, ma prima ancora c'è un'origine sulla pagina scritta di Paolo Villaggio. Sì, diciamo, parte da questi libri meravigliosi che Villaggio ha scritto, e Piccolo Triglia non doveva essere lui a interpretare il ragioniere, ma era stato chiesto a Ugo Tognazzi e a Renato Pozzetto, che hanno rifiutato. Fortunatamente, perché poi lui è diventato questa maschera meravigliosa, lui era perfetto per quel ruolo. L'impiegato medio degli anni 70, a quanto pare, mentre all'epoca comunque c'era un boom economico, quindi era quasi un'estremizzazione della cosa, in realtà guardando il film oggi, dopo 40 anni, ti rendi conto che certe problematiche sul lavoro in Italia si sono, come dire, avverate. All'epoca non era esattamente così, ma adesso invece in molti casi è così, quindi si ride e si riflette molto su i cambiamenti di questi 40 anni, ma la cosa più importante è che si ride ancora. Cioè, io ormai chiaramente da quando abbiamo iniziato questa cosa l'ho dovuto vedere tante volte il film, ed è una cosa incredibile quanto si ride. Cioè, io un film comico così negli ultimi 10 anni non l'ho mai visto. La caratteristica poi ebbe sicuramente un successo clamoroso che lo ha portato a tanti sequel negli anni, e però insomma le ragioni sono proprio in questo, in questa critica, questa satira tagliente, e in cui comunque molti si riconoscevano. Sì, anche perché il pubblico di Fantozzi è capace, come tutti i grandi film, di accomunare persone di ceti sociali, di target sociodemografici completamente diversi. L'operaio e l'industriale vanno a vedere Fantozzi, l'ambiente, il meno ambiente vanno a vedere Fantozzi, cioè sono accomunati da questo film. È una cosa incredibile come Villaggio sia riuscito a creare una cosa incredibile, cioè di questo tipo, cioè, e che, ribadisco, io sfido chiunque a andare al cinema lunedì mattina, mercoledì prossimo, appunto, per uscire al Teo Fantozzi e la successiva, e non uscire a prendere il riso per 2 ore. L'ho già visto, forse conoscere a fare il gag. È qualcosa veramente di straordinario. Senti, come avete lavorato sul restauro? Allora, siamo partiti da un internegativo, anche abbastanza malmesso, ma proprio perché misura chiaramente sulla pellicola, insomma, c'è 40 anni di vita, non sono pochi, e quindi fotogramma per fotogramma sono stati restaurati, migliorati i colori, messi su digitale, e poi si è lavorato sulla colonna sonora, anch'essa restaurata. Per colonna sonora si intendono anche le voci, nel senso, chiaramente sono le voci delle originali, però sono state pulite, era stato fatto un restauro veramente minuzioso. Ciascun film ha impiegato 2 mesi e 140 persone, quindi è una cosa molto molto accurata. Senti, che quali sono i giorni di programmazione? Allora, Fantozzi 1 esce in tutti i cinema in 200 sale lunedì, martedì e mercoledì prossimo. E invece Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, che è quello con la corazzata Cotionchi, tanto per capirci, esce la settimana successiva, sempre di lunedì, di martedì e di mercoledì, sempre in 200 sale. I biglietti sono già in vendita. Bene. Roberto, io ti ringrazio. Alla prossima. Grazie mille a voi, ragazzi. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Roberto Proia di Eagle Pictures sul restauro e la ridistribuzione del film Fantozzi, in uscita in sala da il prossimo lunedì 26 ottobre. Bene, ritroviamo anche Ascanio Celestini, regista del film Viva la sposa, in uscita in sala oggi, giovedì 22 ottobre. Ascanio, ben ritrovato su queste frequenze. Salve, buongiorno. Come stai? Bene, bene, bene, grazie. Tutto bene. Allora, c'era stata la presentazione veneziana oggi nelle sale, partiamo però dagli inizi. Come nasce il progetto Viva la Sposa, Ascanio? Il progetto Viva la Sposa, a differenza di Pecora Nera, nasce proprio come film, insomma. E nasce per raccontare la vita di un gruppo di persone che vivono in particolare in un quartiere che è il Quadraro, e la maggior parte delle scene si svolgono in un rettangolo di un chilometro per 500 metri al Quadraro Nuovo, qualcosa al Quadraro Vecchio e pochissime cose invece si svolgono, insomma, in altre zone, perché era veramente difficile riuscire a girare il film tutto lì. Per esempio, c'è una scena nella quale bruciamo un'automobile e bruciarla, insomma, sulle strade del Quadraro era un po' complicato. Però è la storia, appunto, di alcuni personaggi. Nicola, che è un attore, ma fa uno spettacolo per bambini, animazione, alcolista. Sasà, che è interpretato da Sasà Striano, che invece vive di piccole truffe. Anna, che è una prostituta, che è interpretata da Veronica Cruciani. Alvaro Urwager, che interpreta invece Sofia. Sofia che continuamente dice che se ne vuole andare via, se ne va in Spagna e poi resta sempre lì. È un po' come se fossero personaggi senza destino, o comunque personaggi che ogni tanto cercano di interpretare il proprio destino, però poi vivono in maniera fatalista la loro condizione. Senti, come hai deciso di mettere insieme questa varia umanità, Ascanio? Ma quindi, questi personaggi sono personaggi dei quali si parla quando succede qualcosa, no? Quando uno spara, quando uno muore, quando uno viene arrestato, quando non lo so, insomma, quando se non c'è una questione legata alla droga, al furto, di queste storie non se ne parla, no? È un po' come Lampedusa. Cioè, noi non parliamo di Lampedusa sempre quando ci sono i morti, no? E mai quando dovremmo cercare di capire quello che succede in quell'isola, per esempio, chi sono i lampedusani, come vedono l'arrivo di queste persone, se le vedono, perché poi in realtà a Lampedusa gli stranieri praticamente non ci stanno, cioè ci stanno chiusi nel cosiddetto CPAS, e se ce ne stanno 20, 30, 200, 1500, i lampedusani non lo sanno. A me è capitato proprio un anno fa di fare un lavoro di ricerca a Lampedusa, e intervistando i lampedusani raramente parlavano degli stranieri, perché gli stranieri lì non li vedono, cioè li vedono quelli che vanno in mare, magari quelli che nei momenti tragici li ripescano, però poi quando l'informazione si muove parla dei morti e non parla del contesto nel quale quelle storie, come dire, si svolgono, vivono per davvero. Io ho cercato di raccontare quello che succede quando in una situazione di marginalità, di margine, di confine, di precarietà, diciamo, anche non succede nulla d'eclatante. Qualcosa poi alla fine nel film succede, ma succede alla fine, quindi io cerco di raccontare quello che succede prima dell'arrivo del TG1, insomma. Senti, la sposa, questa sposa che aleggia un po' su tutto il film? Ma la sposa è, come dire, è la parte della storia che è più aperta, che poi ogni spettatore darà una sua lettura, insomma. Qualcuno in questi giorni abbiamo fatto abbiamo presentato a Venezia, abbiamo fatto alcune presentazioni, anteprime, l'altro ieri a Bologna, il giorno prima a Parma e Modena, ieri stavamo a Pisa, Firenze, adesso stiamo andando verso Bergamo, domani saremo a Milano, per cui già abbiamo un po' incontrato il pubblico vero, diciamo così, insomma, cioè il pubblico che va al cinema, le persone che vanno al cinema. E qualcuno ci ha detto che la sposa è l'informazione, perché questa sposa la vediamo quasi sempre in televisione, solo in una scena viene vista davvero, insomma, dai personaggi. E qualcun altro ha detto la sposa è la realtà che questi che vivono fuori dalla realtà osservano, oppure il contrario, cioè la sposa è quella che viene raccontata come realtà, ma non è la realtà, mentre invece quelli che vivono nella realtà vedono la comunicazione come se loro fossero da un'altra parte. Non lo so che cos'è la sposa. Oggi è uscito un articolo della critica sulla stampa che la definisce selliniana, forse anche quello, insomma, lo vedranno gli spettatori, vedranno in questo rimedio. Poi io penso che in una narrazione, proprio perché non è un'inchiesta, non è un servizio giornalistico, debbano esserci gli elementi che sono evocativi, che stanno lì come passaggio musicale, insomma, che non c'è per forza una spiegazione. Da oggi nelle sale, e come sarà l'uscita, Ascanio? Quante copie? Beh, Beh, fino a pochi giorni fa erano poco meno di 30, adesso penso siano già salite, insomma, penso siano oltre 30. È un piccolo film, chiaramente, soprattutto nel sud ci sta pochissimo, sta a Napoli, a Palermo, credo, non è nessun'altra città del sud. E anche questo, insomma, racconta un po' che cos'è il cinema adesso in Italia. Sì. Prima c'era prima e seconda visione, adesso prima e seconda visione se la gestiscono tutta quanta le multisala e il resto, diciamo, come dire, gira in Cina più o meno piccole, alcuni anche importanti, soprattutto a Roma o in alcune città del nord, però per dire che so, a Viterbo non esce, ma a Rimini sì, insomma, escono più copie di Emilia Romagna che non nel Lazio. Nel Lazio esce solamente in tre cinema a Roma. Per cui un po' l'Italia, diciamo, spaccata anche su questo. Senti, ci saranno proiezioni accompagnate, nel senso ci sarai tu e anche gli altri attori e attrici del cast? Guarda, io sarò nei tre cinema nei quali esce a Roma, però non oggi. Non oggi. Ci sarò domenica. Okay. Per cui adesso finisco di fare il giro nel nord, appunto Bergamo, Milano, Varese, anche è importante, sono molto contento che esce a Varese, anche perché un episodio del film è legato anche alla morte di Giuseppe Uva. Sì. Che è stato ammazzato dai carabinieri a Varese, ammazzato molto probabilmente, insomma, comunque è morto sicuramente non da solo, perché ha preso freddo, ecco. Insomma, a Varese, infatti ho sentito ieri Lucia Uva, ci incontreremo domani e vediamo anche lei che cosa dirà del film, visto che comunque sia in qualche maniera lei c'entra anche abbastanza direttamente, sia perché appunto perché in parte c'è dentro anche la storia di suo fratello, un po' perché c'è la telefonata che Alberto Bigiorgio lo fece al 118 quando sentiva le urla di Giuseppe Uva, e un po' perché, come dire, l'idea pure di lavorare su le persone che hanno subito una violenza, che subiscono una violenza o che vivono, insomma, una condizione di violenza, che raccontate prima in questa violenza accada, è anche merito suo, perché ho fatto una lunga intervista con lei chiedendogli proprio com'era Giuseppe Uva prima che accadesse il fatto e non quello che è successo dopo col processo e via discorrendo. Senti Ascanio, per saperne di più su internet c'è un sito, una pagina Facebook di riferimento per Viva la Sposa? No, c'è la mia pagina Facebook e perfetto. Lì c'è del materiale, insomma. Bene, bene. Io ti ringrazio. Per vedere il più bisogna vederlo. Certo. Un abbraccio e alla prossima, Ascanio. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Ciao. Ascanio Celestini, regista del film Viva la Sposa, in uscita in sala oggi, giovedì 22 ottobre. Dovremmo avere un altro collegamento. Allora, non avevamo in scaletta il nostro ospite che è Davide Manca per parlare però dell'apertura di una nuova sede per Fabrique du Cinéma. Lo farai tu allora, Davide, ben ritrovato per la giornata di domani. Che succede domani? Ciao Federico, ciao a tutti e buon pomeriggio. Domani inauguriamo finalmente la nuova sede della redazione di Fabrique du Cinéma, questa rivista cartacea trimestrale che dopo tanto peregrinare in giro per Roma finalmente ha una sede attiva, grandissima, dove faremo tante attività culturali legate al cinema, e domani appunto sarà la festa di inaugurazione. Senti, dalle 18:30, se non sbaglio, cosa comprende la giornata? Alle 18:30 iniziamo con una tavola rotonda dedicata al mondo della distribuzione dei cortometraggi, al mercato che c'è di questi film brevi dopo la loro fine produzione, quale sarà la loro fine, quale sarà la loro strada, e ne parleremo domani a Fabric con 7 relatori diversi del mondo della distribuzione appunto dei cortometraggi. Seguirà poi la serata con la presentazione di un film, un lungometraggio di Giovanni Virgilio, La bugia bianca, e ci sarà il live di Erika Mu che ha curato la colonna sonora di questo film appunto, e poi di G7 fino a tarda notte. Allora, ricordiamo anche il luogo fisico, l'indirizzo. Sì, noi saremo la città dell'altra economia, gli spazi di Eutropia e Villaggio Globale, che insieme a noi organizzeranno questo evento. Bene, allora un in bocca al lupo e a risentirci presto, Davide. Grazie Federico, a presto, ci vediamo domani sera. Ciao ciao.